Una comunicazione importante del circolar Cinerus per riguardo alla prevenzione della pandemia. Caro socio, contribuisce alla tutela dei più fragili, perché noi stiamo acquistando e distribuendo mascherine certificate FFP2. Anziani operatori, come tutti, dovrebbero essere supportati nella lotta contro il virus, perché più c'è contagio, più verranno fuori nuove varianti, mettendoci sempre e comunque ancora a rischio. La prevenzione e la sicurezza date dalla mascherina possono rallentare notevolmente la circolazione del virus, così come la pulizia accurata delle mani e la distanza fisica, che raccomandiamo sempre ove possibile di almeno 2 metri. Chiediamo quindi maggiore responsabilità da parte di tutti, perché le cose non stanno andando per niente bene. Un tuo contributo oggi può fare la differenza, soprattutto per quanto riguarda la pressione sugli ospedali. Se vuoi partecipare alla campagna, facci un bonifico oggi stesso, con la causale Dona una FFP2 sul IBAN dell'associazione Nerus IT 28Z 030 691 092 810 000 000 0139. Ripeto. IBAN dell'associazione Noerus, IT 28Z 030 691 092 810 000 000 0139. Dacci gli strumenti per aiutare e proteggere tutti quei cittadini che ne hanno assolutamente bisogno. Grazie per il supporto e la diffusione.